I vigili del fuoco vivono il loro lavoro quotidiano sempre in emergenza, quindi in questo momento, così come lo eravamo all'epoca del terremoto, così come lo eravamo quando è stata l'emergenza in Puglia con il treno, siamo sotto organico e stiamo rivendicando appunto qui a Montecitorio il governo lo stanziamento di maggiori risorse economiche affinché venga coperta la dotazione organica carente in questo momento di circa 3.500 unità dei vigili del fuoco. Lo facciamo dandogli anche una soluzione a questa motivazione. Ci sono tutti gli idonei al concorso dell'8 e 14, un concorso vecchio del 2008. Diciamo al governo: fate subito immediatamente un decreto legge urgente, fatelo, e successivamente, attraverso la legge di stabilità che andrà il governo a discutere a ottobre, la copertura economica, trovare la copertura economica per assumere tutti gli idonei al concorso 814. Voi parlate anche di turni massacranti. Beh, basta pensare che in questa emergenza incendi, perché di questo stiamo parlando, di un'emergenza incendi, i vigili del fuoco sono stati costretti a fare il raddoppio dei turni. Lo hanno fatto senza avere nessuna informazione dal punto di vista retributivo, ad esempio. Lo hanno fatto in silenzio, l'hanno fatto come l'hanno fatto al terremoto. Questo non è più accettabile. Quando c'è un'emergenza, il governo deve dichiarare lo stato di emergenza nazionale e deve dare la possibilità al personale dei vigili del fuoco di recuperare le forze per essere poi successivamente pronto a rispondere negli interventi. Per quanto riguarda la carenza di mezzi? I mezzi siamo ormai arrivati si dice a Roma, alla frutta. Abbiamo mezzi fatiscenti, abbiamo attrezzature che devono essere ripristinate, abbiamo bisogno che il governo anche su questo stanzi risorse per acquistare nuovi mezzi che siano anche idonei a fare certi tipi di servizio, perché andare in un incendio dentro un bosco, dentro una pineta, non può essere affrontato con i mezzi quotidianamente utilizzati sulla strada. Ci vogliono mezzi adatti, mezzi idonei. Ma perché sono scoppiati tutti questi incendi, secondo lei? Non è un problema del sindacato, perché è scoppiato tutto questo lo deciderà l'organo competente attraverso le indagini. Quello che è certo è che gli incendi in qualche modo hanno messo in difficoltà il corpo, perché è stato 24 ore su 24 sempre in servizio quotidianamente, come ha sempre fatto. Ma quanti sono i Canadair in tutto? Ci abbiamo 19 Canadair noi a disposizione. Solo 19 per coprire tutto il territorio nazionale? Solo 19, che erano gli stessi 19 che all'epoca, già nel 2003 prima dell'accordo, nel 2013 prima dell'accordo, erano della protezione civile. Adesso sono a tutti gli effetti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La protesta va avanti? La protesta andrà avanti fino a che il governo non darà certezze rispetto alle assunzioni.